All time rock and roll. Yeah. Ciao a tutti. Formazione quasi al completo. Oggi infatti sì, ne manca uno. C'è un diffidato. Esatto. Diffidato che mancava anche settimana scorsa. Sì, ci dai, sta è mancato il callo. Sì, dai, è mancato per metà. Settimana scorsa è arrivato dopo a metà puntata. Dopo varie false prove. Il Bindi ha suoi tempi. Bisogna lasciarlo. No, ma oggi è giustificato. È al lavoro fuori provincia. Provo a dirlo seriamente. Provo a dirla seriamente. Il Bindo non c'è oggi perché è a Firenze per un corso di lavoro. Ok. Bindo, ho cercato di farla più seria possibile. Perdonami. Secondo voi ci ascolta? Sì. Ascoltavo. Col telefono forse, ora con l'applicazione nuova. Vero, applicazione sì, vero. Secondo me è già a letto che dorme comunque. Probabile, sai. Allora, iniziamo subito anche questa puntata con i compleanni. Come sempre, poi andremo a parlare della storia del rock e così via. Partiamo subito con il primo compleanno e lui è Nicky Six, nome d'arte di Franklin Carlton Serafino Ferranna Junior. Finiti, basta. Basta. Serafino. Okay. Basta. Grande Serafino. Chiamato Serafino. Uno dei suoi nomi. Nato a San José l'11 dicembre del 1958, è un bassista statunitense. Six milita nei Motley Crue, uno dei gruppi più importanti nel panorama hair metal della Los Angeles degli anni 80, il cui è il leader e membro fondatore. Quindi tantissimi auguri, caro Nicky, e questi sono i Motley Crue con Girls, Girls, Girls. Questa era Girls, Girls, Girls dei Motley Crue. Adesso continuiamo con il secondo compleanno e vi parliamo di Chester Cortez Thompson, Baltimora, 11 dicembre del 48. È un batterista statunitense che nel 1977 partecipò al tour mondiale dei Genesis, dal quale fu tratto il doppio Live Seconds Out come secondo batterista. La sua collaborazione col gruppo inglese durò fino al 93 e successivamente con la riunione dei Turn It On Again Tour del 2007. Nel periodo intermedio collaborò strettamente con Phil Collins, dove aveva iniziato a dedicarsi parallelamente ai Genesis e a una carriera solista, partecipando alle registrazioni ma soprattutto ai tour dall'82 all'83. Durante il periodo di silenzio dei Genesis, Thompson segue Collins, suonando per esempio nei First Final Farewell Tour del 2004-2005. E adesso vi regaliamo uno splendido assolo di batteria, appunto, del signore che festeggia gli anni proprio fantastico quest'oggi. Thank you. come suggerito dal nostro tecnico Mazzeo, ma quando partiva la batteria in questa canzone, dopo che tre minuti non si è capito. Dopo tre minuti, ma la batteria? Come la batteria? Non poi... alzare la base per oscurare le nostre voci, stai attento. Cioè, perché non c'è il vento. Stai attento, Barbara. Poi, se no, mettevi quello. Facciamo una piccola precisazione: questa canzone durava 9 minuti e passa. E passa. Quindi, praticamente, lui dopo questi 9 minuti ha fatto una flebo e ha ricoverato l'ospedale. Esatto. Perché, no, ma come ti dicevo prima, è molto particolare e a me piace tanto perché all'inizio non partono da una batteria, ma partono da degli sgabelli. Degli strumenti non consoni, esatto, alla musica. Loro iniziano, diciamo, a suonare su due sgabelli e poi piano piano si spostano alla batteria. Poi comunque si fa di batteria tutto ciò che rimbomba, nel senso, chiaro, fondamentalmente sì, tutto ciò che fa una percussione. E la mascherata ci insegna questo. Vero, vero. E adesso continuiamo con la storia della musica. Praticamente. Dopo avervi parlato degli inizi e dei pionieri che hanno iniziato la cultura rock, oggi vi parliamo del periodo che va dal 64 al 66. Era giunto il momento perché qualcosa cambiasse, ma serviva ancora un elemento catalizzatore. Il Misery Beat cambiò per sempre la storia della musica. Questo nuovo stile musicale proveniva dal niente, ma si portava dietro il potere della storia. La Gran Bretagna aveva avuto una scena musicale pidocchiosa per tutti gli anni 60. Per lo più i rockers inglesi scimmiottavano Elvis Presley. La Gran Bretagna non si identificava con il rock and roll, non apprezzava quelle sue attitudini ribelli e non si divertiva ai suoi ritmi frenetici. In altre parole, quindi, il seme era già piantato. La Gran Bretagna ebbe una scena alternativa prima degli Stati Uniti, i Blues Club. In Inghilterra spuntavano Blues Club ovunque, Londra, capitale, ne era ovviamente l'epicentro, ma un po' in tutte le maggiori città inglesi avevano, insomma, la loro dose settimanale di blues. Tocca a me. Prendo il testimone. Tocca a te, stocca. Sì, esatto. Diversamente dalla controparte rock che era costruita attorno ad imitatori, il cosiddetto British Blues contava su veri innovatori che plasmarono la materia blues fino a farla diventare qualcosa di diverso. Cominciò una metamorfosi che trasformò il blues in musica bianca. Si enfatizzavano i ritornelli epici, si velocizzavano le chitarre ritmiche di Chicago, le parti cantate venivano smorzate perché il suono fosse più operoso. Si flettevano i cori, si aumentavano gli arrangiamenti e si aggiungevano armonie vocali. In pochi anni i musicisti di British Blues si trovarono a suonare qualcosa di profondamente sentito, come era il blues americano, ma con una potenza che nessuno altro aveva sulla terra. Agli albori degli anni 60, i veterani di quella scena, o se si preferisce i discepoli, portarono alla formazione di band come i Beach Boys, i Rolling Stones e gli Who. Chi? Who? Non me l'hai fatto stavolta. No, è vero, ti seguivo. Grazie. Per una volta che ti seguo. Vabbè, grazie. I Rolling Stones diventarono la nuova rivoluzione del rock e a Londra registrarono i singoli di maggior successo. Ma era anche tempo di The Kinks e della loro All Day and All of the Night. To be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and nighttime yours leave me never. And all the night. The Kinks. Che volevo, bello, volevo, è venuta così spontanea questo coro. Volevo riaprire io. Schifo. Un po' fuori tempo, sì. All day, night. Era tutto improvvisato e non era voluto, no, ci teniamo a specificarlo. Perché magari uno può pensare, le studiano anche, sì, fuori, infatti, onda, invece no. Siamo terribilmente disastrosi. Allora, ma non è vero. No, siamo bravissimissimi. Adesso continuiamo con un certo signor James Brown, Giacomo Marrone, esattamente. Okay. E vi parleremo del suo primo brano che è entrato nella top 10 e che è anche primo brano a contenere le future caratteristiche del soul e del funk. Quando il Mazzeo, diciamo, no, infatti non ho reso conto di dove è. Ogni tanto mi infila il naso nella scaletta e mi fa: dove siamo? Allora, sono le 19:27 di mercoledì 11 dicembre 2013. Sono impegnato. Siamo a Radio F, Piazza Alta, Foiano della Chiana, Arezzo, Toscana, Italia, Europa, mondo, universo. Perfetto. È tornato fra noi. Vi stavamo appunto elencando. Ma è l'influenza dell'altro tecnico che non c'è. Normalmente questa parte qui, di quello con la testa nelle nuvole, ce l'ha il Bindi. È vero. Però mancando la prende lui. Ma quando non c'è il Bindi, lui non sa con chi confondersi. E allora chiaramente passa di qua o si confonde da solo. Sì. Gli va in crash il cervello, fa come il computer. Stom. Comunque, dicevamo, Papa's Got Brand New Bag, infatti fu scritto nel 65. Il testo racconta di un mago delle sale da ballo, perfetto nel passare da una danza all'altra, da uno stile all'altro. Questi sono i balli citati nel testo: The Jerk, lo strappo, The Fly, la mosca, The Monkey, la scimmia, The Mashed Potatoes, il purè di patate, The Alligator, l'alligatore, il Twist, il Bindi, no, il Twist, no, è il Twist, il Twist, no, potrebbe essere quella merendina, e il ballo del boomerang. Il ballo del boomerang, che sappiamo tutti che uno lo balla e poi torna indietro, sì, e ti spacca la testa, esatto, se attento. Calci rotanti a Google. La prima registrazione doveva essere solo di prova, ma venne così energica che si decise di tenere quella. Prima di cantare sente James Brown: ci sono un sacco di parole qui, non è ancora riuscito a memorizzarle. E infatti piazzò davanti a sé un leggio con il testo. Questo, e chi questa, legge? Questa curiosità. Leggio. Leggio. James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. It's a jerk. He's doing the fly. Don't play him cheap. like a boomerang. Hey! James Brown con Papa's got a brand new band. Come disannunciato bene. Grazie. E adesso continuiamo e rimaniamo sempre in America e parliamo un po' di un gruppo molto sulla cresta dell'onda in tutti i sensi in quegli anni, ovvero i Beach Boys. Beh, ho fatto il doppio senso. Ah, che fatto la battuta. Barbaren nel 1961 la cantavano i Regents. Beach Boys. Ma i Beach Boys, per l'appunto, registrarono quasi per gioco, non immaginandosi la canzone potesse finire su un singolo. La loro casa discografica, la Capitol, la fece uscire proprio sul singolo senza nemmeno avvisarli. I Beach Boys non la presero molto bene perché stavano cercando di crescere e di conquistare un pubblico un po' più adulto. E quella canzone, che assomigliava a una filastrocca da divertimento, non sembrava l'ideale. Ma il successo fu enorme, nonostante Carl Wilson avesse dichiarato che avrebbe fatto a pezzi tutte le copie presenti nei negozi. Ragazzo, tranquillo. Ragazzo, 5 minuti, sì. La vera Barbara Ann è Barbara Ann Fawcett, sorella minore di Fred Fawcett, cognome strano, componente proprio dei Regents, autori del brano. La curiosità imperdibile sulla canzone è la versione degli U nel documentario The Kids Are Alright. È invece discutibile la parodia in tempo di guerra dei Capitol Steps, gruppo satirico americano che trasformarono gatto Barbara Ann in Taliban durante l'invasione dell'Afghanistan. Barbara Ann, The Beach Boys. Barbaren, The Beach Boys. Boys. E andiamo avanti, andiamo in California in diretta. Ma perché ora dove eravamo? I Beach Boys non eravamo in California. Siamo sempre qui a Fogliano, siamo sempre qui nella nostra cara sede. Fogliano Beach. No, Fogliano City. Fogliano City. City. Town, sì. Non City, town. Town. Beach è giù al porto. Sì. Una volta c'era la palude. La festa. No, sì. Anche. Ma andiamo in California, ma per parlare dei Mamas and Papas e della loro California Dreaming, che nasce dal desiderio di viaggiare di una coppia di sposi, precisamente Michelle e John Phillips, quest'ultimo membro del gruppo. È inverno, Michelle vorrebbe essere in California dove è cresciuta. I due ne parlano. La notte John si sveglia all'improvviso con un verso in testa che fa "All the leaves are brown and the sky is grey". Tutte le foglie sono marroni e il cielo è grigio. Probabilmente il Mazzeo a All the leaves avrà pensato tutte le livelle, ma invece no, sono tutte le foglie. Sì, sono tutte le foglie. Non è tutte le livelle. Non ho pensato proprio. Vale. Devo dire che non mi capita mai di svegliarmi la notte e pensare certe cose. Però aspetta, perché parole abbastanza scontate, ma l'eccitazione che avverte è quella che conosce bene. Sta per arrivare l'ispirazione, capisce che sta nascendo qualcosa e sveglia la moglie. Quella notte viene concepita California Dreaming. Io pensavo che avessi tirato una scarpa. No, e dormi, quello invece prima. No. Quello prima. Dopo hanno pensato di fare questo stupendo brano. Successo che definire mondiale è a dir poco. I due coniugi non devono far altro che mettere in musica la nostalgia per Los Angeles e la California. La chiesa che apre la seconda strofa con le parole "Stop the crunch, I passed along the way", che vorrebbe dire "Mi fermai in una chiesa lungo la strada", è la cattedrale di San Patrizio che i due avevano visto due giorni prima. La canzone viaggiò. Sì, la canzone viaggiò molto. T'hai perso, viaggiò un po' stento. La canzone viaggiò molto più a lungo del loro matrimonio, che fu arrestato nel 1968. A tutt'oggi, pensate, i Mamas and Papas hanno venduto ben 44 milioni di dischi. Impressionante. Mamas and Papas, California Dreaming. Giochi a punticino domenica. To alle 10:30 la mattina. E cieco. Salutami Pupo. Sì, te lo saluto, vai, se lo vedo. Grazie. No, veramente. Il tuo Enzo. Grande Enzo Ghinazzi. In arte Pupo. In arte Pupo. Ne approfittiamo per salutarlo. Ciao Enzo, ciao Ghinazzi, ciao Pupo. Tre persone in una. In una. Piccolo ma grande. Continuiamo con Paul Simon e Art Garfunkel, che misero in canzone, pensate, il suono del silenzio. Voi direte, come? Il Silent Sound, ha detto. Più o meno. Ha detto Mazzeo. Lui del Silent Sound. Sembra San Vincent. San Vincent. L'ha dato troppo al casino. La voleva dire in francese, San Vincent. Era la marca di Vincent. Ma non c'entra in francese, è americana. San Patrice.

di Nancy, la figlia. Con la canzone These Boots Are Made For Walking. Che significa? Noi. Queste scarpe sono fatte per camminare, penso. Il singolo venne pubblicato. Queste scarpe sono fatte per camminare. Anzi, boots. Non queste scarpe sono fatte per camminare, forse penso. È stivale, non è scarpa. Sì. Shoes è scarpa. Il singolo venne pubblicato e arrivò nella prima posizione negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Valerio. Sì, dimmi. Ma perché oltre a camminare a che serve un stivale? Vabbè. Forse li tiri. Sì. Se durante la notte il marito si sveglia perché ha in testa le foglie, esatto. Potresti anche tirare lo stivale. Poi ti risvegli e crei una canzone come California Dreaming. Però vabbè. Per lì, insomma, la notte. Vabbè, lei ce l'ha già in mente questa prima. Okay. Però vabbè. Questa canzone venne adottata dalle truppe americane durante la guerra in Vietnam come canto durante le marce. E la Sinatra in un'occasione si recò sul posto per esibirsi davanti la Sinatra, ai... La signora, era una signorina. La mia cugina. Una signorina. Non la conosci. La Sinatra. Dagli del lei. Insomma, per esibirsi davanti ai soldati, ok? Infatti il brano compare anche nel film di Stanley Kubrick del 1987 che è Full Metal Jacket. Bellissimo. Ambientato proprio durante la guerra in Vietnam. Nancy Sinatra. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be choosing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. These boots are made for walking. La signorina Nancy Sinatra. Sinatra. Scusa, no. Che ha detto Arsène? Wenger? Sì. Non lo so, è arrivata la formazione, è arrivata. Ti ha mandato un messaggio. Sì, me l'ha mandato molto gentilmente. Non ho fatto un tempo a leggere. Sarà contento lo scarpa che sì. Senti con sì, infatti. Arsène Wenger. Mm. Ecco, io in tutto questo sono proprio girato dall'altra parte. Che io e il calcio. È venuto anche a casa di Valerio. L'avrai sentito qualche volta. È 25 anni che è su quella panchina. Ma io non seguo il calcio. Non è io appena cambio canale o stazione, qualsiasi cosa. Ma no, non lo seguo. Non mi piace, non so chi sia. Domenech. Lui sì. Ah, sì. No, non è vero. Chi è? È uno che fa giocare i giocatori a seconda del loro segno zodiacale. È vero. Ah, questa la so. Sì, che ce l'aveva con lo scorpione. Era lo l'allenatore. Lui era allenatore della Francia qualche sì, anno fa. Lui non chiamava quelli del Signore dello Scorpione perché gli stavano antipatici. No, sì, perché diceva no, era Scorpione, ma. Sì, Scorpione. Diceva che rovinava lo spogliatoio, sì. Lo Scorpione. Vabbè. Giudizi tecnici. Sì, bravo. Infatti ha perso tutto. Tutto, quello che c'era da perdere. Ognuno ha il suo giudizio. Era ancora no, aspetta, ora penso non formazioni gioca, ufficiali di Mister Allegri era, mi ha mandato quella del Milan. Gli mandi il messaggio. Gli mandi il messaggio a Della Valle se gli serve uno sguattero o qualcosa, io ci vado volentieri. Sentirò. Pur di entrare nella viola. Andiamo a parlare dei Rolling Stones? Sì, esattamente, della loro Paint in Black. Quando uscì Paint in Black nel 1966, scusate, in molti pensarono che fosse un testo razziale. Colpa, pensa un po', Alessandro, colpa di una virgola misteriosamente ed inspiegabilmente. Non lo so, mi piace, ti chiamo e seguimi per favore. Alessandro. E inspiegabilmente stampata sulla copertina prima della parola black, che comportò non poche incomprensioni, visto che sembrava un'esortazione dipingi nero, dove nero non poteva essere solo il colore, ma anche l'uomo di colore. Beh, effettivamente è un po' particolare come cosa. E invece la triste storia di era non la siamo triste in chiusura, ragazzi, io vi saluto. Sono confuso. Time, rock and roll. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Due canzoni ci sono su quel canale. Due. È crisi. Senti quella sigla. Cos'è? In ritardo, siamo oggi, in ritardo. Oggi è il giorno di fiducia. Oggi hanno dato la fiducia al governo. Noi votiamo la sfiducia al Mazzeo. Sì. Okay. Facciamo cascare il governo dei tecnici. Tanto uno non c'è, quindi colpiamo adesso che ce n'è uno, no? Beh. Comunque, il testo invece narra della triste storia di un ragazzo che, dopo aver perduto il suo amore, vorrebbe dipingere di nero tutto quanto per intonare le cose della vita al suo umore nero e malinconico. Posso dire che ti si addice molto questo testo? No, lo volevo dire io. È vero? Sì. Vabbè, mi vesto un po' di nero, ma mi piace come colore. Cioè, giusto un po'. Dai, un po'. Non mi piacciono gli altri colori addosso, quindi non più posso. Intanto un po'. Un po'. La musica nacque per gioco quando Bill Wyman cominciò a improvvisare all'organo un riff tipico dei matrimoni ebrei per fare il verso ad Eric Easton, che prima di fare il manager degli Stones era stato un organista dilettante. Charlie Watts gli andò dietro aggiungendo qualche sapore medio orientale. E loro sono i Rolling Stones con Paint in Black. Never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Fade in Black. Fade in Black. Rolling Stones. Cos'è, Luke? Perdi aria? No, stavo sfumando. Ah, okay. Oh. Queste momenti, queste freddure di alta trasmissione radiofonica. Matteo non so a cosa sta facendo. Ah, provava. Ok. A noi la nebbia c'è proprio nel cervello, non c'è niente da fare. Infatti hai visto che è sparita, ora è tutta dentro, sì, qua. Sì, tutta, ce l'abbiamo tutta noi in testa. Spero di morire prima di invecchiare. È uno dei versi più citati nella storia. Ah, è vero. È allegria, Infatti dico, ma... Io, Alessandro, è un po' di nebbia, Alessandro, Luke. Vai, lo con Alessandro. Alessandro, vado avanti. E non ce la fa, non ce la no, fa. No, devo riprendere il piano. Ma poi l'ha detta bene, spero di morire prima di invecchiare. Fatti tutti zitti. Io pensavo in discesa, ma no, ma che dici? Invece tutti zitti. Grazie, bella amici. Ah, ti dice almeno una consolazione ho avuto. My Generation era un bravo ragazzo. Entra nel, sì, dico tutti questi. Entra nella storia per la musica aggressiva e selvaggia, con uno dei primi assolo di bar, di basso di sempre. Di bar. Di bar. Prima stavo a dire di bar. Esatto. L'assolo di bar solitamente si fanno il sabato sera. L'assolo di bar. Un aperitivo, un birrino e... Per i risvolti sociali divenne un inno di tutti i giovani convinti che gli adulti non potessero capire solo per il fatto di essere adulti. E così divenne un inno generazionale. In questo brano Pete Townshend. Posso? Vai. Puoi riniziare. In questo brano Peter Townshend, che poi è Pete. Sì, Pete, abbreviato, nome completo è Peter. Peter. Peter. Townshend. Peter, non, Peter. Boh, ho capito, ma non ne sono molto sicuro. Comunque, sempre al bar, no? No, no, ma Peter! Gli assoli di bar che dicevi prima. No, scherziamo, ovviamente. Incanalò non solo la rabbia, ma anche lo svuotamento, la mancanza di una direzione che lo stava attanagliando. My Generation era un modo per combattere la società, ma al tempo stesso per trovare un ruolo all'interno di essa. Leggenda vuole che lo spunto per scriverla fu una decisione della regina madre, addirittura, che aveva fatto portare via dal carro attrezzi la macchina di Townshend perché offendeva il suo gusto estetico quando faceva il suo giro in città. Ma no, vabbè, povera macchina, povero lui. E sti aristocratici, ne vedono tante di macchine brutte in giro, particolari. Leggenda, forse l'unica cosa certa è il successo memorabile della band inglese My Generation, The Who. Try to dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We get around. Things ain't too awful tumble. Hope I die before I get old. Possiamo sfumare My Generation degli Who. Ed era il nostro ultimo disco di questo. Sei finito, ciao. Via, via, via, basta. No, dai. No, abbassa. Fa per bene, su. Se potessi avere tu, Mazzeo, quel suono del vento, lo useresti ogni 3 secondi, di la verità. Vai, sentire. E ora campiono la traccia e la porterò, dai. Ok. Va bene? Campiono la traccia. Campiono. Ricordi tu, Valerio, gli appuntamenti? E no, un so buono. Allora vado io. Ricordiamo come sempre. Puoi abbassare. Finalmente ha ammesso i suoi limiti in radio. Incredibile. Ah, ricordiamo l'appuntamento con All Time Rock and Roll tutti i mercoledì, dalle 7 alle 8. L'ho ferito nell'orgoglio. Sì, abbastanza. Dai, vai, vai. Poi la pagina Facebook All Time Rock and Roll Radio F. Yes. Dove potete trovare sia il podcast della puntata di oggi. Esatto. Che quella che devo ancora mettere di settimana scorsa. Quando vuoi. Non ho avuto tempo, purtroppo. E poi cos'altro, Patru? E poi ricordiamo uno, diciamo, la particolarità, un'altra rubrica, no rubrica, però insomma, diciamo che settimana prossima, visto la che posta si... del cuore di Pitta, no, no. No, non aveva nessuna posta del cuore. Ah, okay. Gli hanno anche portato via la macchina, poveretto, non... pensavo, non lo so. Ah, ce lo salutiamo, fare. No, ricordiamo, visto che siamo sotto le feste di Natale, settimana prossima, e quindi il 18 faremo specialone. Esatto, special, faremo uno special di Natale. Cos'è lo special di Natale? Ci faremo allungare per una settimana la barba lunghissima, ce la dipingeremo, invecchieremo in una maniera allucinante in 7 giorni. E pensavo stavi per dire apriremo gli uovi di Pasqua insieme, no, qui tutti. Io fa Rudolf, mi faccio il naso rosso. No, il naso rosso è... A parte, sai quanto rosso ci vuole per fare sto naso, però vabbè. No, la specie di Natale dove metteremo le puntate, appunto, di Natale, però fatte versione rock. Che volevi dire? Che le canzoni, non le puntate. No, io dicevo con Rudolf. No, Rudolf io, con il naso rosso lo faccio io. Vabbè, ma ti arrabbia, scusa. Scusa. Hai detto puntate, volevi di canzoni forse. Anzi, un no più fiato, lo dico. No, oggi no, niente. Abbassi niente. Questa base, per favore. Mi piace. E mazza di regalare queste emozioni infinite. È fantastico. Ragazzi, ci risentiamo mercoledì prossimo. Oh, aspetta, no, ricordiamo l'appuntamento con Sugar Knight stasera. A che ore era? Le 10? 22, sì. Dai 22 alle 23. E domani con Piazza Alta, sempre dalle 22 alle 23. Esattamente. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo per lo special di Natale. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. We'll be right back.